Ananì, appena mangiato, uscì nel cortile e si sdraiò sopra una stuoia sotto il sambuco. L'aria era tiepida. Attraverso i rami vedeva grandi nuvole bianche passare sul cielo turchino. Egli guardava e sentiva una dolcezza infinita calare da quelle nuvole. Pareva una pioggia di latte tiepido. Ricordi lontani, erranti e cangianti come le nuvole gli sfioravano la mente, confusi con le impressioni recenti. Ecco, egli rivede il paesaggio melanconico, vigilato dai pini sonori dove suo padre ara la terra per seminare il frumento del padrone. I pini hanno un rombo che pare la voce del mare. Il cielo è profondamente e tristemente azzurro. Anania ricorda due versi. I suoi occhi sono azzurri, vuoti e profondi come il cielo. Gli occhi di Margherita. No, egli offende Margherita pensando così, ma intanto è felice di ripetere versi così originali. I suoi occhi sono azzurri, profondi e vuoti come il cielo. Che passa dietro il pino? Ah, il portalettere dai baffi rossi. Una cornacchia con le ali aperte batte forte il becco sulla fronte del povero uomo. Dum, dum, dum. Margherita corre ad aprire, prende la lettera rosea a fili verdi e comincia a volare. Anania vorrebbe seguirla, ma non può muoversi, non può parlare. Ecco però il portalettere che si avvicina e lo scuote. Sono le tre, figlio mio. Quando dunque andrai dal padrino? Chiese zia Tatana scuotendolo. Egli balzò in piedi con un occhio chiuso e l'altro aperto, una guancia pallida e rossa l'altra. Che sonno, disse stirandosi. È che stanotte non ho dormito per niente. Ora vado, eh? Andò a lavarsi, si pettinò. Perdette mezz'ora a farsi la scriminatura da una parte, poi nel mezzo, poi a farla scomparire del tutto. Il cuore gli batteva per l'angoscia. Chi è questo? Che è? Che diavolo ho? Pensava e voleva dominarsi, ma non ci riusciva. Sei ancora lì? Quando dunque andrai? Gridò la vecchia dal cortile. Egli si affacciò alla finestra. Cosa dunque gli dirò? Che parti domani? Che farai da bravo? Che sarai sempre un figlio rispettoso? Amen. E lui cosa mi dirà? Beh, ti darà dei buoni consigli. Non mi parlerà di quella cosa? Di quale cosa? Dei denari, disse egli abbassando la voce e portandosi le mani alla bocca. Oh, benedetto, rispose la vecchia sollevando le braccia. Che ci hai da veder tu? Tu non sai nulla. E allora vado. Ma invece andò da Bustianeddu, poi nell'orto per congedarsi da Zio Pera e anche dai fichi d'India, dai cardi, dal panorama, dall'orizzonte. Trovò il vecchio sdraiato sull'erba col randello posato anch'esso sull'erba con attitudine di riposo. Dunque parto, Zio Pera, addio, state bene e divertitevi. Eh? Chiese il vecchio che diventava sordo e cieco. Parto, gridò Anania, vado a Cagliari per studiare. Il mare? Sì, a Cagliari c'è il mare. Dio ti accompagni e ti benedica, figlio mio. Il vecchio zio Pera non ha nulla da darti, ma pregherà per te. Avete niente da comandarmi? Chiese Anania curvandosi con le mani sulle ginocchia. Il vecchio si sollevò, lo guardò fisso e sorrise. Che vuoi che ti comandi? Anch'io devo partire. Anche voi? Esclamò lo studente sorridendo per la smania che tutti, anche i vecchi decrepiti, avevano di partire. Anch'io. E per dove, zio Pera? Ah, per un paese lontano, disse il vecchio stendendo la mano verso l'orizzonte. Per l'eternità. Soltanto sul tardi, dopo essere passato e ripassato sotto le finestre di Margherita, senza poter scorgere la fanciulla, Anania entrò e chiese del padrino. Non c'è nessuno in casa. Se attendi, rientreranno fra poco, disse la serva con arroganza. Perché non sei venuto prima? Perché faccio quel che mi pare e piace, disse egli entrando. È giusto, meglio perdere il tempo con quella schifosa d'Agata che venire a riverire i benefattori. Uffa! Egli sbuffò appoggiandosi alla finestra dello studio. Ah, la serva lo umiliava come in quella notte lontano quando egli con Bustianeddu erano venuti per chiedere una scodella di brodo. Nulla era cambiato, egli era sempre un servo, un beneficato. Lacrime di rabbia gli inumidirono gli occhi. Ma io sono un uomo, pensò, posso rinunziare a tutto, lavorare la terra, fare il soldato, ma non è servile, ora me ne vado. E si staccò dalla finestra, ma ma sfiorando la scrivania già illuminata dalla luna, scorse fra le carte buttate su alla rinfusa una busta rosea a righe verdi. Il sangue gli salì al capo, le orecchie gli arsero percosse da una vibrazione metallica, incoscientemente si curvò e prese la busta. Sì, era quella, squarciata e vuota. Gli parve di toccare la spoglia di una cosa per lui sacra, che era stata violata. Ah, tutto era finito per lui, l'anima sua era vuota e sbranata come quella busta. D'un tratto una viva luce inondò la stanza, egli vide Margherita entrare ed ebbe appena il tempo di lasciar cadere la busta, ma si accorse che la fanciulla aveva indovinato il suo atto ed una viva vergogna si unì al suo dolore. Buonasera, disse Margherita deponendo il lume sulla scrivania. Ti hanno lasciato al buio. Buonasera. Egli mormorò, deciso a piegarsi e poi fuggire e non lasciarsi vedere mai più. Siedi! Egli la fissava con occhi attoniti. Sì, quella era Margherita. E in quel momento egli la odiava. Scusa, cominciò a balbettare. Io non l'ho fatto apposta. Non sono un vile, ma io ho veduta quella busta. La toccò col dito. E non ho potuto, l'ho guardata. E tua? È mia. Margherita arrossì e si confuse, mentre Anania, come liberato da un peso, cominciava a distinguere le cose e a ragionare. Il suo orgoglio, offeso dalla vergogna patita, lo consigliava a dire che l'invio del sonetto era stato uno scherzo, ma Margherita, nel suo vestito da passeggio, con la vita stretta da un nastro verde e lucente, era così bella e pura che mentire con lei sarebbe stato come mentire a un angelo. Anania avrebbe voluto spegnere il lume e restare al chiaro di luna, solo con lei, e caderle ai piedi e chiamarla coi più dolci nomi. Ma non poteva, non poteva, sebbene si accorgesse che anche lei sollevava e abbassava gli occhi con delizioso terrore in attesa del suo grido d'amore. «Ha letto tuo padre?» egli chiese a bassa voce. «Sì, ha letto e rideva», ella rispose commossa. «Rideva?» «Sì, rideva». Alla fine mi diede il foglio e disse: Chi diavolo sarà? E tu? E tu? E io? Essi parlavano piano, ansiosi, già avviluppati dal mistero di una complicità deliziosa, ma improvvisamente Margherita cambiò voce e aspetto. Oh, ecco papà, c'è Anania! Esclamò correndo verso l'uscio e uscì rapidamente, mentre Anania ricadeva nel massimo turbamento. Egli sentì la mano calda e molle del padrino stringere la sua e vide gli occhi azzurri e la catena d'oro scintillare, ma non ricordò mai precisamente i buoni consigli e le barzellette che il padre di Margherita quella sera gli prodigò. Un dubbio amaro lo tormentava. Aveva o no capito Margherita il vero significato del sonetto? E che ne pensava? Ella non aveva detto nulla a proposito, nei preziosi istanti che gli s'era così stupidamente lasciato sfuggire. L'aspetto turbato di lei non gli bastava, no? Ed egli voleva sapere di più, voleva sapere tutto. Che cosa? Si domandò con tristezza. Niente, era tutto inutile, anche se ella aveva capito, anche se ella gli voleva bene. Ma questa era una stupidaggine. E poi tutto era inutile, un vuoto immenso lo circondava e in questo vuoto la voce del signor Carboni si perdeva senza essere ascoltata. Senza essere ascoltata. Come in un abisso deserto. Sta lieto e non pensare ad altro che a studiare, concluse il padrino, vedendo che Anania sospirava. Allegro dunque, sii uomo e fatti onore. Margherita rientrò accompagnata dalla madre, che prodigò allo studente la sua parte di consigli e di incoraggiamenti. La fanciulla andava e veniva per la stanza, s'era arrabbiata i capelli in modo civettuolo, lasciando un ciuffetto sulla tempia sinistra. E quel che più importa, s'era incipriata. I suoi occhi scintillavano, era bellissima. E Anania la seguiva con uno sguardo delirante, ripensando al bacio di Agata. Come attirata dal fascino di quello sguardo, quando egli andò via, ella lo seguì e lo accompagnò fino al portone. La luna illuminava il cortile, come in quella sera lontana, quando la visione altera eppure soave di lei aveva destato nel bimbo la coscienza del dovere. Anche adesso ella appariva altera e soave e camminava leggera, con un fruscio d'ali pronta a volare. E Anania credeva ancora di sognare, di vederla sollevarsi davvero e sparire nell'infinito, e di non poterla raggiungere mai più. E il desiderio di stringere la vita sottile, cinta dal nastro lucente, gli dava le vertigini. Non la vedrò più. Cadrò morto appena ella avrà chiuso il portone, pensò quando giunsero al limite fatale. Margherita attirò il catenaccio, poi si volse e porse la mano allo studente. Era pallidissima. Addio, ti scriverò, Anania. Addio, egli disse, tremando di gioia, ma invece di andarsene, si ritrasse nell'ombra e attirò a sé Margherita e parve ad entrambi che il contatto delle loro labbra facesse scoppiare qualche cosa di terribile, di grandioso nell'aria, perché mentre si baciavano perdutamente, sentirono come il rombo e l'ardore e la luce del fulmine. 8. A Cagliari Anania frequentò il liceo e per 2 anni l'università. Studiava leggi. Quegli anni furono come un intermezzo nella sua vita, un intermezzo pieno di dolcezza e di armonia. Già in treno, mentre attraversava i solitari paesaggi sardi, resi più tristi dall'autunno, egli sentiva una nuova vita. Gli pareva di essere un altro, di aver cambiato vestito, smettendone uno lacero e stretto per uno nuovo, soffice e comodo. Era il bacio di Margherita che lo rendeva felice. O l'addio a tutte le piccole e misere cose del passato, o la gioia un po' paurosa della libertà, o il pensiero del mondo ignoto verso cui correva. Egli non sapeva né cercava di sapere. Un'ebbrezza profonda, fatta di orgoglio e di voluttà, lo avvolgeva come un vapore odoroso, attraverso il cui velo egli intravedeva orizzonti mai prima sognati. Com'era bella e facile la vita! Egli si sentiva forte, bello, vittorioso. Tutte le donne lo amavano, tutte le porte della vita si aprivano davanti a lui. Lungo il viaggio da Nuoro a Macomer, stette sempre sul terrazzino del vagone, scosso fortemente dall'urto dispettoso del piccolo treno. Poca gente saliva o scendeva nelle stazioni desolate e le acace lungo la linea pareva aspettassero il treno per gettargli contro nembi di foglioline gialle. «Ecco», dicevano le acace al treno, «prendi, piccolo mostro dispettoso, noi stiamo sempre ferme e tu cammini, che cosa pretendi di più?» Sì, pensava lo studente, la vita è nel moto. Egli pareva di sentire la forza gioconda nell'acqua agitata, mentre fino a quel giorno la sua anima era stata una piccola palude con le sponde soffocate da erbe fetide. Sì, le acace smarrite nelle immote solitudini sarde avevano ragione. Sì, muoversi, andare, correre vertiginosamente, questa era la vita. Eppure, passando sotto un nuraghe nero, su un'altra roccia, simile a un nido di uccelli giganteschi, Anania desiderò di trovarsi lassù con Margherita, soli tra le rovine e i ricordi che spiravano col selvaggio odor del lentischio. Soli, suggestionati da ombre e da fantasmi di età epiche. Ah, come si sentiva grande! Ma ecco che le cerule montagne della Barbagia, Natia, svaniscono all'orizzonte. Una sola cresta dell'Ortobene appare ancora dietro altre cime, violacea, sul cielo pallido. Ancora un lembo, una ponta, una pietra, più niente. Anche i monti tramontano come il sole e la luna, lasciando un triste crepuscolo nell'anima di chi si allontana dal paese natio. Addio! Addio! Anania si sentì triste, ma per scuotersi pensò intensamente al bacio di Margherita, il cui ricordo del resto non lo abbandonava un istante. A momenti però trasaliva. Non era stato tutto un sogno. Se ella dimenticava o si pentiva, ma subito l'orgoglio gli ridonava la speranza. La sua ebbrezza durò parecchi giorni, finché durò lo stordimento della nuova esistenza. Tutte le cose gli andavano a seconda. Appena arrivato a Cagliari, trovò una bellissima camera con 2 balconi, da uno dei quali si godeva un paesaggio chiuso da colline e dal mare luminoso, talvolta così calmo che i piroscafi e i velieri si disegnavano come incisi sull'acciaio, e dall'altro il panorama della rosea città, che coi suoi bastioni, il suo castello, i palmizi, i giardini, rassomigliava a una città moresca. Di fronte al palazzo nuovo dove egli abitava sorgeva una fila di casette antiche ritinte di rosa, con balconi spagnuoli pieni di garofani e di stracci stesi ad asciugare al sole. Ma egli non guardava laggiù. I suoi occhi ammaliati correvano sullo stupendo scenario della città e si fermarono sulla linea dei bastioni e dei palazzi medievali che chiudevano l'orizzonte grandioso. Tutto lassù era leggenda e poesia. Agli ultimi di ottobre faceva ancora caldo, l'aria odorava di alghe e di fiori, e le signore che passavano sotto il balcone di Anania vestivano di mussoline e di stoffe leggere. Allo studente pareva di essere in un paese incantato, e l'aria fragrante e snervante e le comodità nuove della sua camera e le dolcezze della nuova vita gli davano un senso di mollezza e di languore. Fu preso da una specie di sonnolenza voluttuosa. Tutto gli sembrava bello e grande e ricordando il molino e le succide figure che vi si raccoglievano, si domandava come aveva potuto per tanto tempo vivere laggiù. La vita umile del povero vicinato proseguiva certamente il suo corso melanconico, mentre qui, nei caffè lucenti, nelle vie luminose, nelle alte case battute dal sole, dal riflesso del mare, tutto era luce, gioia e poesia. L'arrivo della prima lettera di Margherita accrebbe la sua gioia di vivere. Era una lettera semplice e tenera, scritta su un gran foglio bianco con caratteri rotondi, quasi maschili. Veramente Anania si aspettava una letterina azzurra con un fiore dentro e sul principio gli parve che Margherita volesse fargli sentire la sua superiorità e volesse dominarlo, ma poi, dalle espressioni semplici e affettuose della fanciulla, che pareva continuasse con quella lettera una lunga e ininterrotta corrispondenza, s'accorse che ella lo amava sinceramente, con ingenuità e con forza, e ne provò una dolcezza inesprimibile. Ella gli scriveva: «Ogni sera sto lunghe ore alla finestra e mi sembra che tu debba da un momento all'altro passare, come usavi prima di partire. Mi dispiace molto la nostra lontananza, ma mi conforto pensando che tu studi e prepari il nostro avvenire». Poi gli indicava dove indirizzare la risposta e lo pregava del più gran segreto, perché naturalmente la famiglia di lei, venendo a sapere del loro amore, vi si sarebbe opposta. Anania rispose subito, tutto vibrante d'amore e di felicità, sebbene un tantino oppresso dal rimorso di tradire il suo benefattore. Però sofisticava già. Se amandola io rendo felice la figlia, non faccio male al padre. Le descrisse le meraviglie della città e della stagione. Mentre scrivo, sento le rane gracidare ancora negli orti lontani e vedo la luna salire come un volto d'alabastro sul cielo verdognolo del crepuscolo tiepido. È la stessa luna che vedevo salire sul solitario orizzonte nuorese, è lo stesso viso rotondo e melanconico che vedevo affacciarsi sopra le rocce dell'Ortobene, ma come ora mi sembra più dolce, diverso, quasi sorridente. E di nuovo, appena impostata questa prima epistola, egli sentì un impetuoso desiderio di correre all'aperto e salire sul colle di Bonaria. Una dolcezza orientale calava con la sera splendida. Il viale che conduceva al santuario era deserto e la luna cominciava a brillare attraverso gli alberi immobili. Il cielo di un azzurro verdastro prendeva sopra la linea madreperlacea del mare una tinta di un verde inverosimile e nuvole rosse e violette lo solcavano. Pareva un sogno. Anania si fermò davanti al santuario e guardò il mare. Le onde riflettevano la luminosità del cielo, delle nuvole colorate e della luna e venivano a infrangersi sotto il colle come enormi conchiglie di madreperla che arrivate alla riva si scioglievano in liquido argento. E le barche veliere allineate sullo sfondo luminoso parevano ad Anania immense farfalle scese a riposarsi sull'acqua. Mai egli si sentì felice come in quell'ora. Gli pareva che la sua anima fosse luminosa come il cielo, grande come il mare. Al bagliore della luna e dell'estremo crepuscolo decifrò qualche frase della lettera di Margherita, poi baciò il foglio e a malincuore si decise a ritornare in città. La luna seminava il viale di monete e disegni argentei. S'udivano ancora le rane e i canti dei pescatori. Tutto era dolcezza. Ma arrivato davanti alla sua casa, Anania udì grida, strilli, urli di donne e voci d'uomini che pronunziavano parole infami. Si volse e vide davanti alle casette rosee che si scorgevano dal suo balcone un gruppo di persone accapigliate. Alle finestre dei palazzi non si affacciava nessuno. Pareva che gli abitanti del quartiere fossero abituati alla scena, all'ossessione di quella gente che si accapigliava in una mischia infernale, gridando le più luride ingiurie che l'uomo possa pronunziare contro il suo simile. Davanti al giardino, un grosso uomo vestito di velluto nero, immobile alla luna, si godeva la scena con aria quasi beata. Ma le guardie? Perché non vengono le guardie? Gli chiese Anania, turbato. Che fanno le guardie? Rispose l'uomo senza guardare lo studente. Ogni settimana sono qui le guardie, spintoni di qua, spintoni di là, tutto finisce e poi tutto ricomincia il giorno dopo. Bisogna mandar via quelle donne, riprese l'omone minacciando da lontano i rissanti. Aspettate, ve la do io adesso, aspettate che tutti abbiano firmato il ricorso alla questura. Ma che cos'è? L'omone lo guardò con disprezzo. Sono donne perdute, dunque. Anania rientrò a casa pallido e ansante e la padrona si accorse del suo turbamento. Ma che cos'ha? Gli disse. Si è spaventato. Sono donne allegre coi loro giovanotti e si azzuffano per gelosia. Ma le faranno andar via, abbiamo ricorso alla questura. Di che paese sono? Egli domandò. Una è cagliaritana, l'altra credo del capo di sopra. Le urla raddoppiavano, si distingueva la voce di una donna che si lamentava quasi l'avessero ferita a morte. Dio, che orrore! Anania tremava e, attratto da una forza irresistibile, corse ad aprire il balcone. In alto, sul cielo purissimo, la luna e le stelle, in basso, ai piedi del vaporoso quadro della città, quel gruppo di demoni, quelle grida di rabbia, quelle parole abominevoli. Ed Anania stette a guardare angosciosamente, con l'anima oppressa da un tremendo pensiero. Oh, fate che la sia morta, Dio mio, abbiate pietà di me, Signore! Singhiozzava egli a tarda notte, tormentato dall'insonnia e dai tristi pensieri. L'idea che una delle due donne che abitavano le casette rosee potesse essere sua madre era svanita dopo le informazioni date durante il pranzo dalla padrona di casa, ma che importava? Se non qui, là, in un punto ignoto, ma reale, a Cagliari, a Roma o altrove, ella viveva e conduceva o aveva condotto una vita simile a quella delle donne che gli abitanti di via San Lucifero volevano scacciare dal loro quartiere. Perché Margherita mi ha scritto? Egli pensava. E perché le ho risposto? Quella donna ci dividerà per sempre. Perché ho sognato. Domani scriverò a Margherita e le dirò tutto. Ma che posso dirle? E se quella donna fosse morta, perché devo rinunziare alla felicità? Non lo sa forse Margherita che io sono figlio del peccato? Se si fosse vergognata di me, non mi avrebbe scritto. Sì, ma certamente ella crede che mia madre sia morta, o che per me sia come morta, mentre io sento che è viva e non rinunzio al mio dovere, che è quello di cercarla, trovarla, trarla dal vizio. E se si è emendata? No, essa non si è emendata. Ah, è orribile. Io la odio, la odio, la odio. Visioni truci gli attraversavano la mente. Vedeva sua madre accapigliata con altre donne, con uomini luridi e bestiali, udiva gridi terribili e tremava d'odio e di disgusto.